Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Appunto, cosa fa un gastronauta? Un gastronauta viaggia per conoscere, per scoprire cibi, per scoprire luoghi, per scoprire personaggi. E chi è stato un po' il maestro di tutto questo, specialmente nel viaggio che oggi faremo? Poi ve lo racconto qual è il viaggio. Sentite, sentite. Che cos'è viaggiare? Viaggiare è conoscere luoghi, genti, paesi. E qual è il modo più semplice, il modo elementare di viaggiare? Ma è di mangiare, di praticare la cucina di un paese dove si viaggia. Perché se voi ci pensate bene, nella cucina c'è tutto. C'è la natura del luogo, il clima, quindi l'agricoltura, la pastorizia, la caccia, la pesca. E nel modo di cucinare c'è la tradizione di un popolo, c'è la storia, la civiltà di questo popolo. L'uomo come ha avuto la prima idea di viaggiare? Ma l'ha avuta mentre lui stava fermo e guardava qualche cosa che invece viaggiava, qualche cosa che andava. Per esempio le nuvole nel cielo, un fiume che scorreva. Anche io ho avuto l'idea di questo viaggio molto semplicemente, pensando al fiume che attraversa la città dove sono nato, Torino. Ebbene, cari gastronauti, avrete capito che il personaggio che stava parlando è lo straordinario scrittore, regista, poeta, tutto quello che volete, Mario Soldati. Bene, Mario Soldati ha fatto uno straordinario viaggio lungo il Po. Anche a me mi sarebbe piaciuto di essere vicino a lui, di viaggiare con lui. E allora mi accontento, l'ho fatto tante volte, sono andato in giro un po' per il Po, per trattorie, a scoprire prodotti, però non l'ho fatto magari per giorni e settimane come tanti altri hanno fatto. Allora lo faccio oggi via radio. Lo faccio via radio facendo intervenire i personaggi che vivono lungo il Po, che cucinano lungo il Po, che producono lungo il Po e magari che raccontano anche delle bellissime cose lungo il Po. E allora oggi cominciamo, comincio questo viaggio un po' all'incontrario. Perché? Perché vado alla foce del Delta e vado in una trattoria a Porto Tolle, Santa Giulia di Porto Tolle, vado alla trattoria Arcadia da Pamela Veronese. Buongiorno Pamela. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Senta Pamela, la tradizione, ecco, voi seguite la tradizione, diciamo, del fiume, la tradizione gastronomica che nasce e che vive attorno al fiume? Diciamo che tutto quello che facciamo segue la tradizione del fiume e della laguna che ci circonda. Ecco, e quali sono, diciamo, come posso dire, i prodotti più importanti che voi utilizzate nella vostra cucina? Allora, i prodotti più importanti che noi utilizziamo arrivano effettivamente dalla laguna, quindi dalle foci, perché effettivamente noi ci troviamo, come anticipava prima, alle foci del Po nel delta del Po Veneto. Effettivamente il prodotto principe per eccellenza sono le cozze, uniche in Italia ad essere allevate non dico con mangimi, ma allevate in una zona completamente naturale. E con queste qua noi soprattutto nel periodo principe maggio e giugno prepariamo la cozzeria, quindi diversi modi di poterle assaggiare. Poi ci sono le vongole, tutto il pesce di laguna, il bisatto che è l'anguilla selvatica fatta arrosta, fatta in umido, fatta fritta, i gamberetti di laguna, le acquadele, può arrivare qualche ombrina, le soglioline, i pacciarati, quindi è un territorio, è una zona che ci offre tantissimo. Le molecche o moecche sono questi granchi durante la muta che si trovano soli in due determinati periodi dell'anno e si fanno fritti. Quindi è una zona che ci offre tanto sia a livello di pesce, molluschi e crostacei, ma anche a livello di selvaggina, perché è una zona che anche ci dà la selvaggina. Quindi diciamo sia l'uno che l'altro. Sì. E di selvaggina cosa è che avete in particolare? Di particolare noi siamo andati, la mia mamma è nata diciamo da famiglie di gente che ha sempre avuto l'osteria proprio lì lungo il Po effettivamente, e quindi noi andiamo a ripigliare certi piatti che ormai sono andati persi, tipo risi e fasoi in brodo, quindi è un brodo fatto con i fagioli, il riso nostro del Delta, e dentro viene cotta anche la folaga. quindi un piatto molto, certo, molto vecchio, certo, che noi siamo andati a prendere: il risotto di folle, i tagliolini con la lepre, i germano reali, i fischioni, le azzavole, quindi tutte, tutta selvaggina che arriva appunto dalle foci del Po. Senta, il bisato della sacca di Scardovari è molto buono, vero? È un'eccellenza, devo dire che è un'eccellenza, tanti arrivano da noi per mangiare questa specialità, soprattutto arrosto, quindi deve essere minimo 3-4 etti di peso pulito, è una specialità, pelle molto sottile, meno grasso e molto molto più saporito di un'anguilla di allevamento. E se uno viene da noi o da altre parti nella zona, la consiglio. Bene, senta, diciamo, oltre a questi prodotti, sia carne che pesce, volevo chiederle, avete anche ortaggi, avete anche frutta vicino? Allora, noi logicamente ci affidiamo soprattutto, esempio, la nostra attività, la nostra osteria segue le stagioni sia per quanto riguarda la selvaggina che il pesce, ma anche per quanto riguarda la frutta, per quanto riguarda la verdura. E noi ci appoggiamo a chi la sa fare bene, tipo il radicchio di rosolino di Chioggia, certo, ecco, tipo le mele che vengono in un paesino lì vicino a Rovigo, che c'è questa signora che produce mele. E quindi noi ci affidiamo a chi sa fare meglio di noi, certo, in questa zona, certo. Noi soprattutto è di allevamento e raccolta cozze vongole, pesce di laguna e, come dicevo prima, selvaggina. Ma voi avete la fortuna di avere il mercato di Rosolina, quindi sicuramente è un mercato abbastanza importante, poi sì, anche con molti anche campi dove ci sono molte fragole durante il periodo, quindi sicuramente è ricco. Bene, io la ringrazio, grazie, la ringrazio molto. Io ricordo Porto Tolle, anzi Santa Giulia, la trattoria Arcadia della famiglia Veronese. A presto, grazie, grazie tante. Grazie, buona giornata a tutti. Bene, continuiamo a navigare sul Po. Ora facciamo un balzo addirittura quasi a metà strada del Po. Andiamo a Boretto Po, dove c'è un porto importante, provincia di Reggio Emilia. Andiamo all'osteria Dal Brilan. Buongiorno Carpi. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Senta, ma perché si chiama Dal Brilan? Perché lei è uno brillante? Sì, perché sono una persona viva. Ecco perché si chiama Dal Brilan. Ci deve stare in compagnia, tra una baracchina e l'altra. Senta, ma se io entrassi, diciamo, stasera nel suo ristorante, qual è il piatto che lei pensa di offrirmi? Stasera esempio abbiamo in cottura della spalla cotta, sì, che stasera finisce le 9 ore di cottura a fuoco lento, con della polenta arrostita e poi fritta, e questo come antipasto. Mia mamma ha fatto il bollito, ha fatto con le galline francesine e del cappone e del manzo, della noce di manzo. Senta, no, Carpi, che ci facciamo i capelletti. Anche i capelletti. Senta, la tradizione del fiume. C'è qualche piatto che ricorda un po' la tradizione del Po? Sì. La nostra tradizione del Po viene con dei brasati e con degli stracotti, sempre con le carni, perché noi del pesce non lo facciamo sempre di tara, tutto di tara. Sì, no, ma la tradizione è anche di spalla cotta, di culatello, certo. Culatello, tutta di nostra produzione, con i salumi e tutto. Senta, il vino come andiamo, vino? Il vino faccio 2 lambruschi e un bianco. Un lambrusco lo faccio con dell'ancellotto parmigiana e se no faccio del boschetto mantovano, sempre con dell'uva mantovana faccio una tolambusa, e poi se no faccio un bianco con del trebbiano e della punta di malvasia. Bene, io la ringrazio, Omar Carpi, osteria Dal Brilan a Boretto Po, provincia di Reggio Emilia. Sicuramente a Mario Soldati sarebbero piaciuti questi vini molto caserecci. Bene, ora andiamo a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. Vedete, abbiamo fatto Reggio Emilia prima, poi abbiamo fatto Rovigo, quindi quante province tocca il Po, quanti chilometri sicuramente, quante tradizioni, perché non c'è un'unica tradizione, varia appunto secondo i punti dove scorre. Dicevo, andiamo a Monticelli d'Ongina, alla Cattivelli. Buongiorno a Claudia Cattivelli. Buongiorno a tutti. Bene, cuoca appunto di questo ristorante. Volevo chiederle, Claudia, lei risente della tradizione che c'è sempre stata attorno a questo fiume dal punto di vista gastronomico? Ma il nostro locale, che è un locale che appunto nasce sulle rive del fiume, sente immensamente di questa tradizione, di questa influenza dell'acqua, di questo fiume che passa vicino a noi. E lo ritroviamo appunto nei nostri piatti. Ecco, ce ne racconta qualcuno? Ma forse per qualcuno che conosce la cucina piacentina, i pisserei fasoi, i tortelli di erbette e spinaci fatti a treccia sono una cosa, diciamo, ormai è un classico conosciuto e riconosciuto, però sono dei piatti che veramente ci differenziano, che differenziano e contraddistinguono quella che è la provincia di Piacenza. E quindi io dico che questi sono due capisaldi della nostra cucina che sicuramente vanno menzionati. Altri piatti legati, diciamo, al fiume, sicuramente quelli che riguardano il pesce d'acqua dolce, il pesce in carpione, che in questo periodo viene servito con la polenta, o non so, una guella, una bella anguilla marinata fatta un pochino sgrassare prima in forno e poi passata in questo vino con le erbe aromatiche e anche l'aceto, che è una squisitezza sempre come antipasto. Senta Claudia, si trova ancora, è molto pescoso ancora il Po? Beh, diciamo che ci sono tanti pescatori che si divertono e che vengono a divertirsi lungo le loro acque, però direi che è meglio di buttare il pesce che si pesca piuttosto che cucinarlo. Ah, ho capito, capito. È decisamente meglio, io non mi fiderei più di tanto a mangiare quello che pesco nel Po oggi. Perché è molto inquinato? È abbastanza inquinato, diciamo che poi i pesci autoctoni, quindi il pesce gatto, la tinca, la carpa, il pesciolino, che una volta si pescavano in abbondanza, oggi non esistono più. Ecco, senti, lo storione. Il pesce gatto non si trova più? No, nelle acque del Po da noi perlomeno non si trova più. Senta, lo storione voi lo cucinate comunque comprato altrove oppure l'avete proprio abbandonato? No, noi lo cuciniamo e lo compriamo altrove. Sul Bresciano c'è un importante allevamento di storioni da cui noi ci forniamo. Ecco, lei come lo cucina lo storione? Ma da noi lo potete trovare, poi i piatti variano durante l'arco anche dei mesi, quindi nel periodo estivo per esempio lo storione potrebbe essere trovato e servito come antipasto con una salsa verde della Bassa, oppure come secondo fatto stufare con delle verdure, che rimane molto leggero, molto piacevole, anche perché è una carne molto delicata, una carne pregiata, molto morbida, e quindi diciamo che si deve apprezzare per quello che è, non deve essere coperta con dei sapori o troppo arricchita, è già buona da sola. Ho capito. Nella sua semplicità. Bene, io la ringrazio Claudia Cattivelli, lo ripeto, a Monticelli Dongina, in provincia di Piacenza, la ringrazio, grazie. Arrivederci, buona giornata a tutti. Ecco, continuiamo questo viaggio, come avete capito andiamo in quasi tutte province toccate per capire un po' appunto le tradizioni. Ora andiamo in provincia di Cremona, che è, diciamo, molti locali sono lungo il Po quando tocca la provincia di Cremona, e noi andiamo a Stagno Lombardo, andiamo a Lido Ariston Sales. Ecco, Lido Ariston mi dà già proprio l'idea degli anni 50, mi dà l'idea appunto magari di sera con le luci in cui magari c'è anche una musica di fondo, non so, sicuramente non è così, ma lo è stato così. Lo chiediamo a Tilde Consovini. Buongiorno Tilde. Buongiorno, la sento malissimo. Le chiedevo questo, io immagino un Lido. Il Lido di solito è quello che è, magari di sera ci sono le luci fuori, i lustrini e negli anni... No, è Lido perché aveva dato il nome così mio papà, perché avevamo una spiaggia. La spiaggia qui vicino era partito negli anni 57, figuriamoci. E quindi avevano una spiaggia, aveva messo giù gli ombrelloni, il nostro locale era partito come il semplice, quello che una volta si chiamava baracchino sul Po. Ecco, e quindi per quello è Lido. E poi si è sviluppato come? È diventato poi un ristorante? Tenendo sì, bella trattoria, ristorante, poi curando logicamente sempre di più quello che è la classico, il classico menù, insomma. Senta, tenendo aperto poi dopo tutto l'anno, mentre prima era solo estivo. Senta, quando era baracchino, cosa si mangiava? Mario, allora c'era solo pesciolini, pesce del fiume Po proprio, e salumi, perché mio papà è sempre stato molto amante dei salumi fatti in casa, quindi il salame, la pancetta, si facevano degli gnocchi classici marubini cremonesi. Senta, quei pesciolini non ci però sono... Però queste cose qui le abbiamo sempre mantenute anche adesso. Senta, quei pesciolini non ci sono più sul Po? No, non esistono più, purtroppo... Anche se il fiume Po non è più inquinato come era il suo tempo, però è sparita tutta quella che è il pesce. Quindi non c'è più pesce, no, per niente. No, no. Senta, un tempo sì, c'era il pesce gatto anche, c'era... Sì, c'era... perché c'erano le lanche, oramai adesso ci sono solo dei laghetti artificiali e fanno gli allevamenti lì, ecco. Senta, oggi cosa offre lei ai suoi clienti? Quali piatti particolari? Ha detto i marubini sicuramente che sono tradizionali. Marubini perché sono classici cremonesi, certo. Che sarebbero poi tortellini, però solo i tre brodi, a Cremone si servono solo in brodo. Ecco, ma spiega poi, cosa sono i tre brodi? I tre brodi perché il brodo è fatto con carne di manzo, e gallina possibilmente nostrana, magari ripiena, e ci si mette la parte o del vitello, una volta si metteva anche il maiale, adesso per essere un po' più leggeri si metteva il vitello. Certo. Ecco, si fanno le carni di tre tipologie, con le sue verdure e via. Senta, diciamo per secondo piatto, qual è il suo piatto forte? Allora, oltre al pesce di fiume, che comunque noi l'abbiamo, perché abbiamo tutti i tipi di pesce, li chiamiamo di fiume anche se... arrivano da altri fiumi, certo, da allevamenti, certo. Abbiamo sia la adesso in questa stagione abbiamo anche la selvaggina, perché noi siamo anche nella zona dove ci sono riserve di caccia, quindi ci sono lepri, fagiani e cose del genere, poi noi ci alleviamo le galline, le anatre, quindi abbiamo tutto il pollame da cortile, ancora come i vecchi tempi, me lo faccio ancora, e facciamo le parti delle canne, ma anche il pesce, per dire, lo storione, che arriva da Calvisano, che certo. L'allevamento, ecco, anche quello si fa ancora e sempre fresco, si utilizza sempre fresco. Poi ci sono, adesso nella tipologia quasi si comincia autunnale, invernale, abbiamo appena finito di fare funghi freschi, funghi porcini, anche se non sono della pianura, perché nella pianura abbiamo certo. Funghi chiodini, quelli pioppini, quelle cose lì, con magari della carne di maiale, con del salame, via. Bene, bene, mi fa venire fame, signora, mi fa venire fame. Bene, io la ringrazio. Tilde Consovini, Lido Ariston Sales, a Stagno Lombardo, in provincia di Cremona. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, buongiorno. Continuiamo il nostro viaggio, andiamo in provincia di Mantova. Le stiamo proprio girando tutte. Andiamo in provincia di Mantova per un modo particolare, poi andremo anche per il cibo. Ma ora perché andiamo a Revere. A Revere c'è un importante museo del Po, in particolare, ora ce lo spiegherà Gabriele Setti, che è un esperto di mulini, ex sindaco di Revere, perché c'è qualcosa di originale e di unico in questo museo. Buongiorno Setti. Buongiorno, buongiorno. Cosa c'è di così fantastico su questo museo? Ecco, il museo di Revere ha una particolarità che lo contraddistingue tra tutti gli altri musei di carattere etnografico che si estendono, si sviluppano lungo tutta l'asta del fiume Po, ed è quella di avere come appendice museale un mulino galleggiante sul fiume Po che è stato ricostruito sulla falsariga dei tantissimi mulini che praticamente erano ormeggiati al centro del fiume Po e di questo sfruttavano la corrente, che hanno operato sul fiume Po fino ai primi anni del Novecento. Di questi importanti opifici ce ne contavano veramente a centinaia, nell'immediato dopoguerra sono completamente scomparsi, e l'amministrazione comunale di Revere ha voluto arricchire il museo del Po con le testimonianze, tutto il lavoro che le persone che abitano in questo territorio lavoravano, questo importante opificio a dimostrazione dell'operosità dell'uomo padano. Senta, e questo oltre a questo mulino dentro ci sono altre cose che toccano appunto il fiume, per la storia del fiume? Sì, il fiume è diciamo segnato nelle varie sezioni del museo, partendo da una sezione archeologica che parte da reperti di epoca etrusca fino ad epoca romana, per poi passare ad epoca rinascimentale, una sezione cartografica che anche questo lo rende unico in tutta l'asta del fiume Po, in quanto raccoglie tutta la cartografia del fiume intesa come corso più grande d'Italia e nella sua interezza, vale a dire tutte le carte geografiche che si parte dall'epoca del 600 fino ad arrivare ai giorni nostri sono praticamente rappresentanti l'intero corso del fiume Po e lo rappresentano sia per quanto riguarda il confine geografico ma il più delle volte anche per quanto riguarda un confine politico e di conseguenza anche un territorio di guerra. Altre sezioni riguardano la caccia e la pesca, che erano attività che davano da vivere alle popolazioni del appunto rivierasche, e c'è un'importantissima sezione che ci viene invidiata un po' da tutti i musei del fiume Po, ed è quella relativa alla navigazione, in quanto è arricchita da una collezione importante di modelli di imbarcazioni che solcavano il fiume Po, anche in questo caso fino agli anni 50, quando la navigazione viene sostituita praticamente dal trasporto su gomma. Esiste poi un'altra importantissima sezione, che è quella del Funtinagno Museum, che va ad interpretare quello che è il significato dell'acqua, non solamente per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma anche per quanto riguarda appunto l'aspetto religioso. Basti pensare che in quasi tutte le nazioni del mondo il battesimo, l'appartenenza ad una determinata religione passa tramite appunto una cerimonia che vede l'acqua come maggior interprete. Bene, grazie Gabriele Setti, Museo del Po, il Mulino Natante, a Revere, provincia di Mantova. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a viaggiare lungo il Po, andare qua e là per scoprire sia delle chicche gastronomiche, per vedere anche cosa è cambiato. Abbiamo sentito che ormai il pesce del Po non c'è più, quasi è rimasto quasi nulla. Ma ora vogliamo veramente navigare e andiamo sullo Stradivari Boat. Andiamo dal suo comandante. Buongiorno Giuliano Landini. Buongiorno a tutti, grazie. Giuliano, io volevo chiedere a lei qual è il viaggio che voi fate appunto sul Po, da dove partite e quali punti toccate? Dunque, la motonave Stradivari, oggi la più grande motonave fluviale d'Italia, è ancorata, ormeggiata al porto turistico di Boretto in provincia di Reggio Emilia. Per farla breve, tra Brescello, il paese di Peppone Don Camillo, e Gualtieri, il paese di Antonio Ligabue, quindi proprio in una zona molto vocata per l'arte, la cultura e il turismo. Certo, certo. E quindi voi partite dal porto di Boretto. Sì. E quindi navigate possono essere navigazioni di più giorni oppure invece sono viaggi molto brevi? Diciamo che noi riusciamo a fare l'escursione in giornata e riusciamo ad arrivare fino a Ferrara per quello che riguarda a valle, quindi verso la foce da Boretto, discendendo la corrente e risalendo fino a Cremona. Poi ci si trova con la conca e lo sbarramento a Isola Serafini, adesso stanno per iniziare i lavori per la nuova conca, quindi poi potrebbe arrivare anche fino a Foce Ticino verso Pavia. E riesco ad andare anche a Venezia, come sono stato di recente, lo scorso anno, per eventi dove imbarco poi là i passeggeri, appunto sulla zona di Venezia e di Chioggia, perché non avendo il pernottamento a bordo, la possibilità di ospitare camere o in smezzare l'escursione, la gita a Ferrara, o diversamente sono tutte gite di giornata. Senta Giuliano, ma si mangia a bordo? Sì, abbiamo un ristorante, appunto è stato ottimizzato appunto la cucina, proponendo, rivisitando anche la cucina tipica e il pesce di fiume, che è una cosa che è fondamentale per le nostre diete, i nostri paesi. Anni fa erano i pescatori che la facevano più da padrone, è stata un'economia importante la pesca del pesce d'acqua dolce, quindi noi proponiamo piatti proprio con pesce d'acqua dolce. Senta, mi dica la verità, ma il pesce non arriva dal Po? È oramai sul Po, è quasi introvabile, diciamo la fauna ittica autoctona, il pesce autoctono è quasi sparito, ma non per colpa del siluro, ma per colpa della corrente libera del fiume, dell'inquinamento, quindi per colpa dell'uomo. Comunque noi riusciamo ad avere pesce di allevamento, pesce del lago, laghi de Garda, lago Maggiore, quindi il luccio, la trota, il persico, le anguille delle valli, riusciamo ad avere materie prime di notevole qualità. Qual è il periodo più fascinoso per fare questo viaggio appunto a bordo delle Stradivari Boat? I periodi migliori, noi viaggiamo comunque tutto l'anno perché organizziamo con un minimo di partecipanti di un pullman, perché la nave, ripeto, è molto grande, e quindi dopo dirò anche qualche dato tecnico. Quindi noi organizziamo queste gite per questo numero, dicevo, di almeno un pullman, e proponiamo una cucina che come dicevo prima sposa la tradizione. La tradizione, e chiaramente si trovano anche i tortelli di zucca, i tortelli d'erbetta, il risotto con la pasta di salame, tutto quello che è l'anolo in brodo, rigorosamente con brodo di cappone, che dalle nostre parti ce ne trovano ancora parecchi, certo. Nelle golene e nelle gole del Po, nell'alveo di via del Po c'è chi ha ancora delle meravigliose cascine dove allevano i capponi, dove si trova il lambrusco, quello buono, quel lambrusco che macchia, il lambrusco di una volta, quello che macchia la tovaglia, insomma, proprio. Bene, grazie Landini, io la ringrazio, e sappiamo che si può partire ogni giorno anche con le nebbie, quindi anche in questo periodo che forse c'è un certo fascino il fiume con la nebbia. Domanda, perché la nebbia, in quanto è molto fitta anche con i radar, diventa difficile. Il periodo migliore è la primavera e l'autunno, sia per i colori che per le condizioni idrometriche del fiume, certo. E quindi noi soprattutto festivi e la domenica organizziamo il pranzo in navigazione di 3 ore, visitiamo un'oasi naturalistica, quindi è molto accattivante e si può pranzare anche con musica dal vivo a bordo, quindi i periodi migliori, noi ci ripeto, sia tutto l'anno, ma primavera e autunno sono i più indicati, anche a giugno, poi inizia la grande siccità e diventa un po' complicato la navigazione, ma siamo comunque operativi anche come ristorante. Grazie a Giuliano Landini, Stradivari Boat, porto di Boretto, provincia di Reggio Emilia. Ora andiamo a Viadana, andiamo in provincia di Mantova, e questa volta non parleremo di museo ma parleremo di cibo. Andiamo dall'osteria da Bortolino. Buongiorno buongiorno a voi. A Roberto Nardini, sì, buongiorno. Nardini, lei è molto, cioè, è molto nota la sua osteria per il cibo. Ci racconta un po' come lei segue la tradizione del Po, segue la tradizione del territorio? Beh, noi siamo sulla riva del Po, quindi in realtà dovremmo seguire entrambe. Però non ci siamo mai specializzati sul pesce, quindi seguiamo più il territorio. Quindi facciamo la cucina tipica mantovana, dal tortello di zucca al guancialino di maiale, agli stinchi, naturalmente tornando sui primi, gli agnolini in brodo e cose di questo genere. Proponiamo ancora il minestrone e i passatelli, piatti forse un po' dimenticati. E certo, perché ormai il pesce non c'è più, giustamente voi seguite un'altra tendenza. Senta, in riva al Po, ecco, volevo chiederle questo, in riva al Po d'estate la situazione, come posso dire, dal punto di vista delle zanzare è ottimale oppure c'è qualche preoccupazione? Beh, non è così drammatica come può sembrare, innanzitutto. È chiaro che siamo obbligati a fare una disinfestazione, quindi vengono le ditte specializzate che danno il veleno giusto, non so, una volta ogni 20 giorni, 25 giorni. E poi tutte le sere noi mettiamo uno zampirone o due per tavolo, quindi abbiamo, non so, una quindicina di tavoli, 20 tavoli, e mettiamo almeno il doppio, 30-40 zampironi, che nonostante siano un sistema un po' antico, un po' retro, funzionano molto bene. Una cosa, ecco, sono previste piogge per, diciamo, diverso tempo nelle prossime giornate. Volevo chiederle, ma ecco, voi siete preoccupati quando il Po si alza, perché avete avuto anche dei brutti momenti, sì, in passato? Sì, sì, sì. In autunno abbiamo sempre un po' questa preoccupazione, c'è sempre il rischio dell'alluvione. Devo dire che siamo per fortuna abbastanza in alto, sia il terrapieno dove è costruito il ristorante, poi abbiamo un altro metro circa di scale prima di arrivare su nella sala, e quindi ci vuole proprio un'alluvione di quelle eccezionali per entrare dentro. Però nel 2000 ad esempio è entrata per 1,5 metri proprio all'interno del ristorante, creando ovviamente disagi enormi. Gli altri anni diventa una cosa quasi un'attrazione turistica, perché di solito ci circonda, lambisce proprio il giardino, l'acqua, senza mai entrare dentro a fare danni, quindi il nostro lavoro continua tranquillamente e la cosa è anche caratteristica, insomma. Ci sono ancora turisti che vengono proprio per poter mangiare sulle rive del Po e quindi vivere il fiume? Ma certo, chiaramente Viadana non è un posto turistico, però è vicino a punti di interesse come Sabbioneta, Brescello, dove c'è Peppone Don Camillo, insomma è un luogo dove non c'è attrazione turistica, però il sabato e la domenica passano sicuramente i turisti. Durante la settimana invece abbiamo più che altro persone del luogo o zone limitrofe, insomma gente che lavora, così. Volevo chiederle anche questo importante sulla tradizione che voi avete detto, appunto, rispettate non più quella del fiume, perché sicuramente il fiume non c'è più. La tradizione dei salumi è sempre forte nella vostra zona? La tradizione dei salumi è fortissima, soprattutto sul salame. Infatti noi prepariamo quasi tutti gli anni il salame, facciamo fare da contadini, il salame proprio casereccio viadanese, mantovano, quello con appena appena un po' d'aglio, che viene fatto con i primi freddi, con i primi geli a Natale, i primi di gennaio, poi viene stagionato dopo 3-4 mesi, cominciamo ad aprire i primi verso i primi di aprile. E di solito li finiamo nel giro di 2-3 mesi, i nostri, poi ovviamente siamo obbligati ad acquistarli altrove. Certo, Viadana tra l'altro è diventato un punto importante per i meloni, perché ormai c'è Viadana ha questa grande tradizione sui meloni, che è una tradizione degli ultimi 15 anni. Sì, il melone viadanese è proprio una zona di produzione tipica, si chiama proprio melone viadanese, e quindi per noi d'estate è uno dei piatti principali, che abbiniamo ovviamente con i salumi, prosciutto e culatello, che è l'altro salume principe della nostra zona, quello che cresce con le nebbie, quello che si stagiona con le nebbie. No? Ecco, la nebbia, lei ha toccato un argomento che mi è molto caro, perché se diciamo nella zona di Parma, di Cremona, di Mantova, non ci fosse la nebbia, addio salumi. Sì, sembrava che negli ultimi anni fosse addirittura un po' diminuita, ma devo dire che l'anno scorso e quest'anno non ci ha abbandonato. E già abbiamo avuto una prova quest'anno, in queste mattine ce n'è stata parecchia, e la nebbia sembra che tutti la odino, in realtà nella nostra zona ci sono un po' tutti affezionati, credo. È chiaro che è un disagio per la navigazione, sentivo prima Landini che parlava appunto della sua nave, però è sempre caratteristica, è sempre un qualcosa che ti avvolge. Ecco, a Viadana dove lei è navigabile il Po? Dove sono io navigabile, sì. Quindi passano oltre la Stradivari Boat, passano altre imbarcazioni? Non è che ci siano delle grandi navi che passano, veramente. Ogni tanto arriva qualcuno a mangiare da me, dato che io sono a circa 100 metri dal porticciolo, in barca d'estate, qualcuno arriva, però non è che sia molto trafficato, purtroppo. Allora, si può dire che si potrebbe venire a mangiare da lei in barca, insomma, è questo? Sì, certo. Ecco, ma ci sono queste, diciamo, organizzate, molte compagnie, ma ci sono anche privati? Può capitare che qualche privato parta, non so, da Venezia? A me principalmente sono capitati dei privati, magari da Venezia no, perché è un po' troppo lontana, però sono arrivati dei turisti con la loro barca, tranquillamente. Sì, sì. Un'ultima cosa, i pescatori che erano in quella zona, che quindi hanno... diciamo interrotto l'attività, perché sicuramente non essendoci più pescabile il Po sicuramente fanno altri mestieri, erano tanti un tempo. Ricordo da bambino che c'erano tanti pescatori, c'erano le reti appese, quindi è lontano quel tempo, insomma, è lontano. Bene, adesso non ce ne sono più. Bene, grazie allora Roberto Nardini, osteria da Bortolino a Viadana, provincia di Mantova. Ora andiamo a Casalmaggiore in provincia di Cremona, su una cascina sul Po. Andiamo da un giovane cuoco, il quale è da poco che diciamo ha aperto questo locale, ma gli voglio chiedere se si è lasciato trascinare dal fascino del Po, appunto, con questa cascina. Buongiorno Leonardo Panza. Buongiorno a lei. Tu sei andato appunto a aprire questo locale proprio perché attratto dal fiume? Sì, attratto dal fiume, dal paesaggio che appunto libera la mente, ecco. Può creare in queste zone. Ma sei contento? Quanti mesi è che hai aperto questo locale? L'ho aperto a fine agosto, sono molto contento, sì, molto, molto. Ecco, volevo chiedere, arrivato lì, sicuramente tu arrivi da Mantova, quindi cioè, diciamo che la cucina non è simile, ma quasi. Ecco, come hai impostato il tuo menù? Cioè, rifacendoti alla tradizione di quel territorio molto legato al fiume? Sì, ho cercato di mantenere quei piatti del territorio, e a parte qualche piatto extra, diciamo, di pesce di mare, ma comunque ho preferito il territorio, quindi animali da cortile piuttosto che pesce di lago e salumi, ecco, i salumi che in questa zona appunto sono molti e molto buoni. E così, animali da cortile, io amo molto, quindi conigli, piuttosto che le anatre, faraone, capponi, con cui faccio il brodo, ecco, un brodo che d'inverno con queste nebbie mi scalda l'ambiente. Ecco, ecco, quindi ti stai abituando alla nebbia, insomma. Sì, in poche... addirittura in questi giorni è allucinante. E quindi diciamo che ti ha dato il benvenuto su questa cascina sul Po. Ecco, volevo chiederti, ma diciamo sul fiume, questo fatto del fiume incide ancora sull'economia del posto? Cioè c'è qualcuno ancora che pesca? Mi hanno detto quasi in tutti gli altri posti, diciamo, dove siamo andati, la pesca ormai è finita sul Po. Sì, anche qui, guarda, io ho il fiume praticamente a due passi, ma... assolutamente deserto, ecco, a parte qualche cava dove tirano su la ghiaia, ma di pescatori proprio zero. Quindi ormai diciamo che è un'economia completamente finita e anche una cucina completamente finita, perché mancando la materia prima sicuramente viene meno tutto. Diciamo che hai avuto ispirazione per inventarti un piatto nuovo lì? Ho avuto per più di un piatto, ecco, perché appunto questo è un luogo interessantissimo e soprattutto il cambiamento dall'estate all'inverno è bellissimo, e quindi cambi praticamente la cucina in modo totale. Quindi hai l'inverno dove le cotture sono lunghe, fai dei brasati con dei lambruschi della zona, oppure io ho creato una coppetta di maiale cotta a bassa temperatura per 72 ore che serviamo con una composta di mele che vado a prendere da una signora qua vicino, e quello è un piatto che a me piace molto, ecco, e secondo me caratterizza la zona. Quindi diciamo che hai battezzato insomma la zona. Bene, io ti ringrazio Leonardo Panza, Cascina sul Po, Casalmaggiore in provincia di Cremona. Grazie, continuiamo questa a navigare. Devo dire che avrei voluto fermarmi a Polesine Parmense, in provincia di Parma, all'antica corte Palla Vicina, da un personaggio molto noto nel mondo, diciamo, della gastronomia, che è Massimo Spigaroli. Purtroppo Massimo Spigaroli non riusciamo a trovarlo, non risponde al telefono, e quindi devo dire che dirò io due parole prima di finire questo viaggio, che lo finirò proprio, diciamo, sul delta, poi capirete dove e vi spiegherò anche perché. Devo dire Spigaroli, la famiglia Spigaroli è importante, perché diciamo che a Polesine Parmense ha due locali proprio sulla riva del Po, e sono due personaggi, Luciano e Massimo, molto amanti di questo fiume, anzi hanno fatto di tutto sempre per valorizzarlo, e sono diventati noti con il culatello, ma anche con tutti gli altri salumi, anzi fanno tutta una serie di manifestazioni, anche una manifestazione proprio che avviene sugli argini del Po. Un peccato, perché sicuramente ci avrebbe potuto raccontare anche delle storie bellissime, lui che è così collegato con il fiume. Peccato, ma noi continuiamo, saltiamo appunto Polesine Parmense e tutta quell'area appunto in provincia di Parma che tocca il fiume, con dei prodotti straordinari, perché veramente lì ci sono dei prodotti sia di gastronomia che di formaggi molto interessanti, e andiamo nella frazione Bonelli in provincia di Rovigo, zona di Porto Tolle. Perché ho voluto finire questo viaggio qui? Perché nella trattoria da Renata addirittura si può arrivare in barca. Allora io mi sono immedesimato, faccio finta di arrivare in barca appunto in questo locale, e trovo Maurizio Passarella. Buongiorno Passarella. Buongiorno a voi. Allora, si arriva in barca da voi? Si può arrivare in barca prima di tutto, perché qua abbiamo il Po che passa proprio a 2 metri. E quindi si può arrivare, scendere e venire da voi? Oppure di fronte a noi c'è un porticciolo che hanno appena fatto. L'ha fatto la provincia, uno lo abbiamo anche noi privato, hai capito? E si parcheggia la barca, si attraversa la strada e sei proprio di fronte al mio ristorante. E allora, una volta entrati nel ristorante, io prendo il menù e cosa leggo? Cosa leggo, Maurizio? Allora, qua da noi puoi leggere tante cosine, le più importanti sono le cozze e le vongole della sacca degli Scardoari, che sono una cosa caratteristica, ci sono quasi 2000 persone che pescano tutte le mattine, abbiamo dei vivai delle coste, le vongole sono naturali, vengono un po' seminate quando ce ne sono poche. La fermo un secondo, perché devo dirlo per forza, io sono rimasto affascinato, non conoscevo pochissimo, quasi per niente il Polesine. E un paio di anni fa, per fare un libro, sono venuto appunto, sono stato una settimana in giro e sono rimasto affascinato dai paesaggi, da appunto la zona di Scardovari, ma un po' di tutto il delta. Devo dire, e lo dico forte, che veramente è un posto straordinario dove andare a visitarlo. Poco conosciuto forse, ma uno dei luoghi in cui molti italiani dovrebbero andare, perché sicuramente è qualcosa di completamente diverso e fascinoso, sia con la nebbia che col sole. Ha sentito che pubblicità ho fatto, Passarella? Sì, sì, sì. Allora, abbiamo sentito le cozze, andiamo avanti, poi le vongole. Sì, andiamo. Il piatto tradizionale, oltre al risotto alla polesana, che è fatto con pesce qua nostro di mare, di laguna, che è molto buono. Il piatto tradizionale proprio forte forte sarebbe l'anguilla, che noi siamo specialisti, nel senso perché abbiamo la qualità più che le altre cose, capito? Mio nonno è stato il primo ristorante da Brodon, ancora negli anni 50, a lanciarla, ecco. Noi abbiamo proseguito sulle orme. Senta, Maurizio, è cambiata molto la cucina, diciamo, da suo nonno, cioè anche per la richiesta di... No, non esageratamente. Sì, adesso purtroppo, sai, tante volte ci sono anche i giovani, si introduce qualche crostaccio, che non è che sia proprio di questi luoghi qua, ha capito, c'è un 20%, l'altro 80% devi portarlo da altre parti, ecco. Però le anguille, le soglie, dei rompi, le capesante, le cozze, le vongole, sono tutte cose nostre qua tradizionali, capito? Senta, il primo piatto tradizionale, oltre al risotto, c'è una pasta fatta in casa particolare che voi fate? Particolare, praticamente il piatto forte sarebbe alle vongole e le pevarazze, che sono i tupini di mare, capito? Le poveracce, quelle tradotte poveracce, che ora sono carissime, però non sono più poveracce. No, stanno ritornando a prezzi normali. A volte sono più care le vongole che le pevarazze. Bene, Maurizio Passarella, da Renata a Porto Tolle, signori, si può arrivare sia in macchina ma anche in bicicletta e si può arrivare anche in barca, quindi credo che valga la pena di andare a fare un bellissimo giro nel Delta del Po, perché veramente è una sorpresa, una grande sorpresa. Grazie Passarella e a presto ci risentiremo. Bene, io diciamo ho finito questo mio lungo viaggio sul Po e sono un po' deluso perché non c'è più pesce, avete sentito, da nessuna parte ormai. E allora io vi ricordo che domani, assieme al Sole 24 Ore, uscirà, per le guide del gastronauta, la guida su il vino best price, che sarebbe appunto i vini che costano il giusto e quindi non costano carissimi, quindi sono 210 etichette, e quindi compratelo perché secondo me ne vale la pena. Parola di gastronauta. Bene, io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15 e con la pillola tutti i giorni alle 11.05 e alle 23.05. Buon weekend da Davide Paolini.